Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Un saluto da Maurizio Melis. Ormai da diversi anni, con l'esplosione insomma delle tecnologie web e in particolare la diffusione di software come per esempio Google Maps o piuttosto che le mappe di Virgilio, insomma questi software qui vanno diffondendosi sempre più ampiamente i cosiddetti GIS, cioè sistemi informativi geografici. In pratica sono dei software che sono in grado di associare a delle informazioni di tipo geografico, come per esempio delle mappe, altre informazioni di vario genere. Si va dalle indicazioni a cui siamo abituati, dove si trova la stazione del treno, piuttosto dove sono i ristoranti o gli alberghi, a informazioni anche molto più complesse sulla mobilità, sino a quelle, ed eccoci insomma al tema di oggi, legati alle performance energetiche degli edifici. Nello specifico oggi parliamo di un software che si chiama Energy Book, che è stato adottato da alcuni comuni del Trentino, tra cui il comune di Transacqua, e cerchiamo di capire un po' meglio di che cosa si tratta, che cosa può servire, grazie a Luigi Boso, che è architetto e fondatore dello studio Boso & Partners, che è la società di ingegneria che appunto ha progettato Energy Book. Buonasera Boso. Buonasera a lei, grazie per farmi intervenire. Allora, io direi che possiamo partire così. Se uno ha davanti una schermata del vostro software, che cosa vede? Ecco, allora Energy Book si presenta come un portale organizzato però per, diciamo così, energie piuttosto che per altre tematiche. Quindi il cittadino, l'utente, il progettista, l'amministratore che per la prima volta accede si troverà una schermata d'accesso in cui la prima volta dovrà loggarsi e da lì avrà accesso a varie funzionalità. Le due più importanti sono i dati energetici degli edifici del comune su cui si trova e il secondo, la mappa del comune, sempre soggetto di questo intervento, in cui graficamente si potranno vedere gli interventi. Quindi, quindi proprio una mappa, tipo quelle di Google a cui siamo abituati, per cui si vedono tutti i tetti delle casette viste da satellite, solo che lì le casette hanno in qualche modo una relazione con... cosa cambia? Il colore, non lo so. Esatto, abbiamo una visione che, come lei ha detto, assomiglia molto a quella di Google, che in questo caso è anche georeferenziata perché al di sotto abbiamo gli strumenti urbanistici, quindi il PRG in questo caso. Quindi la mappa del catasto e tutte le informazioni di quel tipo lì. E soprattutto le zone con le varie destinazioni d'uso che naturalmente rendono interessante la lettura sovrapposta poi del dato energetico. Questo quindi diciamo strumento. Che la casetta che funziona bene, quella efficiente, di che colore è? La casetta che funziona bene sarà verde naturalmente, mentre naturalmente andando su altri colori vedremo dei colabrodi energetici che di solito si riferiscono comunque, più che altro ci siamo accorti che risalgono agli anni 70. Ecco, questa è una cosa strana, no? Quando si fanno questo tipo di rilevazioni si fanno anche delle scoperte abbastanza sorprendenti, per esempio che le case del 1800 magari funzionano molto meglio di quelle di metà del 900. Sì, assolutamente, la spiegazione è semplice, le murature che venivano fatte una volta non avevano particolari accorgimenti dal punto di vista degli isolanti, ma lavoravano su spessori notevolissimi, anche più di un metro. Ecco, eventualmente se vogliamo trovare una criticità a questi edifici, anzi in quasi tutti, dobbiamo andare in copertura, in quanto comunque i tetti non erano isolati, quindi l'ultimo piano soffre insomma un tantissimo po' il caldo, soprattutto d'estate. Ecco, senta, in qualche modo secondo me un'indicazione ce l'ha già data, ma che cosa se ne fa l'amministrazione pubblica di queste informazioni? Una volta che questi vedono le casette gialle, verdi e rosse, diciamo, che cosa fa il comune? Ecco, il comune nell'ottica diciamo di una nuova pianificazione dovrebbe riuscire a elaborare dei risultati in sinergia con quello che è il suo strumento urbanistico, cioè il PRG, Piano Regolatore Generale. Sì. Ecco, sicuramente sarà possibile trovare delle zone in cui l'efficienza energetica è già notevole, però potremmo trovare delle zone in cui è ancora da sviluppare. Ecco che una buona amministrazione potrebbe, in questo caso, dare dei premi in termini di cubatura, per esempio, ad edificare, oppure in zone particolarmente delicate potrebbe invece dare delle premialità sotto punto di vista di incentivi anche economici in qualche maniera, oppure si potrebbe riuscire a elaborare un piano per dei quartieri ad alta efficienza, soprattutto per le zone di sviluppo e completamento che devono essere ancora costruite. Senta, ma come la riempite di dati questa mappa? Allora, la mappa lavora su due, diciamo così, due inserimenti di dati che viaggiano paralleli. Allora, il primo è quello sugli impianti pubblici, quindi pubblica illuminazione e edifici pubblici vengono caricati direttamente dal comune tramite i piani di efficienza energetica che vanno a fare lo screening dei pubblici edifici e rappresentano la base di partenza, anche perché naturalmente il pubblico è il primo che deve dare il buon esempio. Ecco. Per quanto riguarda invece gli edifici privati, il sistema è collegato ai moduli di rilascio delle concessioni edilizie, così che ogni volta che un progettista presenta un progetto di nuova edificazione piuttosto che di ristrutturazione, anche il dato energetico viene in automatico caricato sul sistema, in modo tanto in tale insomma che il sistema si autoimplementa. Quindi diciamo ogni volta che c'è una ristrutturazione fondamentalmente il nuovo status energetico dell'abitazione viene registrato in questo database. Ecco, senta, però come dire, le ristrutturazioni insomma si fanno a volte ogni 20-30 anni. Nel frattempo non c'è un modo per scattare una fotografia, per così dire, dei consumi energetici degli edifici, magari approssimativa? Sì, assolutamente. Tutte le amministrazioni si sono poste lo stesso quesito. Abbiamo concordato con i comuni che sono stati approcciati finora uno screening preliminare di circa 100 edifici, diciamo così, in cui andare a fare delle valutazioni, quindi caricare dei dati già significativi, ad esempio nel centro storico di alcuni piccoli comuni. Una specie di rilevamento a campione fate, è così? Esatto, ecco, con questo screen iniziale è possibile fare delle valutazioni già in partenza che a volte possono dare veramente delle sorprese, come ci siamo accorti, insomma. Va bene, grazie Boso. Grazie a lei, arrivederci. È tutto, a domani.